Senti, noi qua siamo alle prese con i tifosi del Marsiglia, perché insomma, essendo la Serie Radio 24 in zona San Siro, ci sono già alcuni avamposti, no, di tifo marsigliese che stanno dirigendosi verso lo stadio. Tu, lo volevo dire a beneficio degli ascoltatori, non sei alle prese con Lia Capizzi o con una delle tue partner di Sky Sport 24, bensì con Vittoria, la secondogenita. Che sì, è un ritorno. Vittoria. Mi auguro che sia ben augurante il suo nome per le squadre italiane. Certo. Oggi Vittoria è qui in sede di commento. Sì. E insomma, quando parlavo prima di tosse mi riferivo a situazioni, certo, familiari, se che peraltro riguardano anche il papà. Per cui. Ah sì, senti, sì. Comunque se ci sono problemi di gestione, cosa, io posso mandare delle voci e tu nel frattempo servire lo sciroppo alla piscina. No, guarda, lei è qua tranquilla, abbiamo un accordo, ha detto che è in silenzio stampa come la Juve domenica e quindi non parlerà durante...